Come ampiamente prevedibile, l'idea del taglio dell'IVA si sta già infrangendo contro il muro di una discussione sulla revisione complessiva del sistema fiscale, questione della quale, come tante vicende italiane, sentiamo parlare da troppo tempo. Chissà che questa non sia la volta buona per rimettere mano a quel coacervo di norme, circolari, interpretazioni e aliquote che affligge un pezzo importante delle nostre vite economiche. Certo, ormai parliamo come se la pandemia non ci fosse più, e invece c'è, nonostante il dato sulle terapie intensive indichi che in 9 regioni sono Covid-free. Al di là della mini zona rossa nel comune di Palmi, in Calabria, c'è la Germania con i 1500 casi nel mattatoio, l'America Latina con i suoi 2 milioni di contagi, gli Stati Uniti con gli oltre 2 milioni. Stati Uniti dove nella notte si sono riaccese le proteste contro il razzismo. A Washington i manifestanti hanno provato ad abbattere la statua del presidente Andrew Jackson. Se volete scapoli di normalità, comunque, al di là delle tensioni politiche, c'è il campionato, Juve che vince sul Bologna, Milan che stravince sul Lecce. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. I'm free to do what I want in any old time. I'm free to do what I want in any old time. So love me. Ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, eccoci qua, è martedì 23 giugno, sono le 6:33 minuti. Siamo qui con la nostra task force, Carmelo Lauricella in regia, Danilo Di Trani in assistenza, Gloria Guerrera in assistenza in redazione, insieme ad Alessandro Marco Tulli. E i nostri autori Margherita Ine e Francesco Ciaraffo. E ovviamente un pezzo fondamentale della nostra task force siete voi. Vi aspetto al 349-238-6666 per motivi oscuri e che sfuggono alla mia comprensione. Anche oggi non abbiamo la possibilità di avere le vostre voci, gli WhatsApp audio. E quindi scrivete, scrivete. Alla vecchia maniera, eh? SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete. Oh, vi parlavo in apertura, in introduzione, vi parlavo di fisco. Oggi tra l'altro c'è il mitico appuntamento del Sole 24 Ore dell'Esperto Risponde, Telefisco, oggi in giornata se ne parlerà, c'è anche il ministro Gualtieri, vedremo che avrà da dire su tutta questa vicenda. Come previsto l'asse, la divisione si articola su tagliare l'IVA o tagliare le tasse sul lavoro o rivedere complessivamente il sistema fiscale. Toh, ne metto pure una terza, che era l'intenzione iniziale del governo. Ma davvero ragazzi, quante volte l'abbiamo sentita questa storia della revisione del sistema fiscale. Conte sul taglio dell'IVA, dopo aver detto ci stiamo pensando, è un'ipotesi, eccetera eccetera, passettin passettino torna un po' indietro. L'eventualità che l'IVA possa essere abbassata per un periodo breve di tempo, in modo da dare una sorta, dicono gli inglesi, boost, una spinta forte per la ripartenza dei consumi. A esprimere delicatamente le perplessità del PD, di quel pezzo della coalizione, ci pensa l'ex ministro dell'economia, per Carlo Padoan. È un tema da considerare con delicatezza. Il taglio dell'IVA potrebbe spingere i consumi, bisogna vedere cosa succede ai prezzi, ma anche altri tagli di tasse spingerebbero i consumi, come per esempio un taglio del costo del lavoro a favore dei lavoratori. Per esempio, ne dico una a Padoan, no? Per esempio, ne dico una a caso, il taglio delle tasse sul lavoro, il famoso cuneo fiscale. E il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ci mette il carico da 12. Serve una revisione complessiva. Richiede una riforma molto ampia e non so se partire dall'IVA o da altro, certamente io credo che bisogna avere una visione comprensiva, non imposta per imposta. Ed eccolo qua, eccola qua, un pezzo del dibattito che è quello sul sistema fiscale. Ieri è arrivata una bella notizia per i Liguri, ma non solo per loro, posto che stanno vivendo giornate di passione sulle autostrade, È durissima. Ci ha scritto un'ascoltatrice questa notte, non so se sia già in ascolto, però sappia che oggi avremo ospite l'amministratore delegato di Autostrade alle 8.40. Maria Stefania ci dice: da Genova arrivo fino al comune di Cogoleto dove lavoro, all'andata 40 minuti, al ritorno un'ora e mezza o due ore. Ragazzi, ragazzi, cambi carreggiata, restringimenti, lavori. E adesso però torna il ponte. Qual è il problema? È che non si sa chi consegnarlo. Lo dice il commissario e anche il sindaco di Genova Bucci. Perché? Perché il tratto prima è in concessione ad Autostrade, il tratto dopo è in concessione ad Autostrade, ma il decreto Genova toglie la concessione ad Autostrade per il ponte ex Morandi, adesso chissà come si chiamerà. Quindi, chissà. Bucci. Abbiamo urgenza di sapere a chi dobbiamo affidare il ponte e abbiamo urgenza di sapere chi si dovrà occupare della richiesta del collaudo finale. E qua torniamo, come vedete, alla questione di fondo, queste divisioni che ci sono all'interno della maggioranza e che sono anche sulla concessione ad Autostrade. Toglierla, non toglierla? Cosa fare? Ci si sta palleggiando da un po', ci si palleggiava da prima quando c'era la Lega al governo con il Movimento 5 Stelle, con i 5 Stelle volevano togliere la concessione subito e la Lega che era contraria o comunque un po' traccheggiava e adesso cambia il partner di governo dei 5 Stelle ma non cambia il problema. Cara Agnese Pini, direttrice della Nazione, come stai Agnese? Buongiorno, piacere di ritrovarti. Buongiorno, piacere mio. Eccoci qua. Allora Agnese, anche tu componente della nostra task force, ci siamo. Oh, si torna a parlare di fisco, di taglio delle tasse, questa storia dell'IVA che Conte l'ha un po' buttata là, diciamo, anche per vedere l'effetto che faceva all'interno della maggioranza, mi pare che non abbia raccolto grandi consensi. Sì, la sensazione è la stessa, appunto, che l'abbia un po' buttata lì, poi sono state rivelatrici le parole di Gualtieri, anche molto poetiche, appunto, usato questo termine delicatezza, che più che sull'IVA uno se lo immagina abbinato a questioni più romantiche, la delicatezza della questione IVA. E in effetti il tema è questo, che tagliare l'IVA è da sempre molto suggestivo ed è sicuramente vero che sarebbe utilissimo per rilanciare i consumi, la Germania lo sta facendo, ma lì è un po' il tipo di paese che uno ha davanti, immagina di avere davanti, cioè un paese con i conti pubblici molto in ordine, come appunto la Germania, può permettersi di fare un piano sull'IVA importante, l'Italia molto meno, cioè le conseguenze non sono da poco e infatti poi i vari nazionalisti della componente di governo, cioè la parte PD-ina rispetto a quella 5 Stelle, i PD in questo caso sono sempre un po' più conservatrici, no? Sia sulla questione del fisco sia sulla questione del ponte, l'abbiamo visto sulla concessione autostrade di cui parlavate poco fa, frenano perché il buon senso dice che tante le cose come sono oggi, con i conti che abbiamo oggi, con la situazione di finanze pubbliche che abbiamo oggi, fare questo passaggio avrebbe degli effetti molto pesanti. E poi come si compensano questi effetti? La soluzione, il piano ancora non c'è. Sì. Visco, che ha ancora più buon senso di tutti gli altri, dice giustamente che dobbiamo fare una grande riforma, ma, però la mia paura è che quando si dice che dobbiamo fare grandi riforme, il modo giusto per non fare nulla. Per non fare nulla. Cioè, guarda Agnese, ci scrive... Agnese, ci scrive un ascoltatore, dice: avete già detto sburocratizzazione o riduzione, avete già detto riduzione della burocrazia? No, non l'abbiamo ancora detto, però questa settimana dovrebbe essere varato il provvedimento per la riduzione della burocrazia. I nuovi vocabolari post-Covid, cioè la burocrazia, la grande riforma, la vera preoccupazione è che in un paese... No, dai Agnese, ti fermo. Non è post-Covid questo vocabolario. Questo vocabolario è l'eterno vocabolario italiano. L'eterno vocabolario italiano. Prego, vai. I grandi alibi per non far nulla. Cioè, usare delle grandi parole, delle importanti parole, poi rischia di diventare davvero il paravento dietro cui poi la politica si scontra all'infinito. E non solo non si fanno grandi riforme del fisco, ma non si fanno neppure quelle piccole, come il cuneo fiscale potrebbe essere, per esempio, un'operazione di buon senso. Se ne parlava moltissimo nell'ultima legge di bilancio, ma anche lì poi la grande riforma sul cuneo fiscale è rimasta un po' lettera morta, insomma. E non è andata a buon fine come sembrava dovesse andare nelle intenzioni del governo iniziale. Sì, oggi segnalo su questo fronte che c'è quella che potremmo definire una saldatura su questo tema del taglio del cuneo fiscale tra varie componenti, perché oggi sul quotidiano La Repubblica Landini, il segretario generale della CGIL, dice esattamente questo: adesso pensiamo a tagliare il cuneo fiscale, che è una cosa che dicono anche gli imprenditori, che a questo punto dice il Partito Democratico. Mi sembra ci sia su questo fronte una certa convergenza. Perché c'era già in autunno, tra l'altro, sì. Quindi insomma è un tema su cui ci si riesce a trovare abbastanza d'accordo. Beh, l'importante è ora farlo, sul serio. Sì. Poi ci sono tutte le questioni politiche. Non so che dire. Vabbè, allora le notizie ci sono, e le notizie arrivano dal centrodestra, che ha trovato l'accordo sui candidati alla presidenza delle regioni, con delle forti concessioni di Matteo Salvini agli alleati, se così vogliamo chiamarle, o comunque mi pare, Agnese, che sia stato messo alle strette che dagli alleati, che non hanno mollato di un filo sulle loro candidature, che sono quelle in Puglia e chiaramente nella tua Toscana, dove va una leghista a candidarsi, che è la Ceccardi, però mi pare che il leader della Lega non sia così soddisfatto. È stata una candidatura molto sofferta, molto con... grandi litigi interni alla coalizione di centrodestra. La scelta di queste candidature in generale, non solo in Toscana, dove la battaglia per la Lega sarà durissima, anche perché partono in netto ritardo rispetto al centrosinistra, che ha scelto il suo candidato addirittura a gennaio. Quindi, poi nel frattempo c'è successo di tutto, voglio dire, però insomma il vantaggio è di svariati mesi, no, sulla campagna elettorale. E in una regione già tradizionalmente di centrosinistra, quindi già difficile, tutto lascia presupporre che questa sia una candidatura partita quantomeno in maniera piuttosto debole. E a livello nazionale io sono forse un po' tranchant, però la sensazione è che sia un po' una messa all'angolo di Salvini la scelta di queste candidature. Nel sud non la spunta, Zaia, che vincerà sicuramente in Veneto, ma non è la vittoria di Salvini, la vittoria di Zaia resta la vittoria di Zaia, cioè sì. Non è un candidato debole a cui Salvini si può affiancare come vincitore reale o morale, no, della partita. Zaia vince da sé, e quindi ecco, cioè, se vogliamo leggere la partita da un punto di vista più ampio, più politico, è la sensazione quella che la leadership di Salvini, sia nella Lega sia come guida del centrodestra, si stia un po' appannando, un po' indebolendo. Del resto anche i sondaggi lo danno decisamente più in crisi rispetto al Salvini anche solo pre-Covid, ma non parliamo del Salvini di un anno fa, che veleggiava verso il 40%, il 40%, sì. Cioè cose straordinarie. Oggi abbiamo una Lega che raggiunge pericolosamente, che si avvicina pericolosamente al PD, non per mettere il PD che non ha fatto nulla per avanzare. Ecco, voglio risparmiare agli ascoltatori per questa mattina le questioni interne al Partito Democratico, Gori che chiede il congresso, Zingaretti che risponde, quell'altro che dice quell'altra cosa, che basta, traffico. Promo 24. Devi gestire il personale in smart working? Hai bisogno di software innovativi per automatizzare i processi aziendali? Gruppo Centropaghe, leader nei software e nei servizi per la gestione del personale e nell'innovazione tecnologica per il tuo business. Da sempre, al fianco di professionisti e aziende. Il partner giusto per la tua realtà, grazie a una suite completa di applicativi in service che rispondono e si adattano alle più svariate esigenze del mercato HR. Una procedura paghe nativa web di ultima generazione e app dedicate alle aziende e ai singoli dipendenti. Scopri la soluzione giusta per te. Centropaghe.it. Gruppo Centropaghe. Un unico partner, mille risorse. Mattino. Scrive un ascoltatore: non sarà che il taglio dell'IVA ci distoglie dal problema delle tasse in scadenza il 30 giugno? È un commercialista. Dico, innanzitutto dovrebbero essere rinviate, la scadenza rinviata al 20 luglio, poi possiamo discutere all'infinito, ma insomma siete voi che lavorate con lo Stato da anni e sapete che viene sempre fatto così, possiamo discutere all'infinito se sia il caso di rinviare una scadenza di pagamento a una settimana dalla scadenza di pagamento, che è una cosa che mi fa diventare pazzo, ma dimmelo un mese prima, dimmi un mese prima, mi dici guarda, questa scadenza è rinviata al 20 luglio, però dovrebbe arrivare un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che rinvia le scadenze fiscali. È stato annunciato ieri con un comunicato stampa del Ministero dell'Economia. Quindi non c'è l'ufficialità di un documento che ve lo dice, però dovrebbe essere così. Allora, vicenda di Alex Zanardi, dell'incidente durante questa manifestazione ciclistica che era... E non l'abbiamo capito, una gara o non una gara? Anche questo non è chiaro. Ci colleghiamo, il resto con noi Agnese Pini, ci colleghiamo con Giulia Zonca, inviata della Stampa a Siena, e tra l'altro anche lei, membro della task force di 24 Mattino. Giulia, ciao, buongiorno, eccoti. Ormai da lunga data. Ormai da lunga data. Allora Giulia, che cosa si è capito? Perché... allora, quello che sappiamo è che quello che abbiamo appurato è che Zanardi non stava guardando il telefonino facendo no. scemenze di questo genere, stava semplicemente guidando la sua handbike. Sappiamo però anche che non c'erano le misure di sicurezza previste per una gara, e sappiamo anche che forse però era una gara non gara. Che situazione era? Da cosa sei riuscita a capire? Allora, una gara non lo era certamente, non la possiamo definire così, non c'era nessun arrivo, non c'era nessun premio, non c'era nessun canone della gara, per cui possiamo escluderla. Se poi la passeggiata in bicicletta, la staffetta d'andatura veloce, chiamiamola come vogliamo, avesse bisogno di una diversa gestione, ne stanno ancora discutendo. Peraltro la staffetta riparte sempre nel nome di Zanardi e con la stessa idea oggi. Prosegue per il resto dell'Italia per poi arrivare in Puglia, mi sembra, il 28 giugno, per cui il problema è sulle strade, diciamo così. Loro avevano scelto di non avere scorta perché dicevano di non averne bisogno e di non avere... Le strade si chiudono solo nel caso delle gare, quindi quello era un'ipotesi esclusa. Forse poteva esserci comunque una sorta di aiuto da parte della polizia municipale per gestire il traffico in quel preciso momento. Questo ora l'inchiesta valuterà se sarebbe stato necessario farlo. Detto ciò, restano i contorni di un incidente, restano purtroppo i contorni di un incidente, perché pur mettendo sulla strada tutti questi fattori, e certamente valutando da molto vicino se non sarebbe il caso di gestire comunque questo giro, queste manifestazioni, non chiamiamole gare perché giustamente non lo sono in altro modo. Resta il fatto che poi è sfuggito un attimo il controllo all'end bike di Zanardi, e su questo poi si lavora per capire come e perché, che è molto difficile capire se c'è un vero colpevole. L'unico indagato resta l'autista del camion in questo momento. Sì, può darsi alla fine, Giulia, che sia quella che chiamiamo fatalità. Esatto. Alla fine, molto semplicemente, cioè noi stiamo qua a parlarne, sicuramente possiamo ragionare sulle misure di sicurezza. A tutti noi è capitato di incontrare, se non siamo ciclisti, guidando sulle strade queste manifestazioni che non sono gare, che però vedono delle persone che sono sulla strada. Ecco, forse una riflessione su questo fronte potrebbe essere. Una riflessione su questo fronte bisognerebbe farla, soprattutto perché stando a Siena, purtroppo, davanti all'ospedale, in attesa di avere delle notizie e delle speranze, il soccorso si muove continuamente. Continuamente, e domenica ha riportato un altro ciclista in pessime condizioni, per fortuna non così gravi, ma succede di continuo, quindi che vada ripensato è chiaro, ma va ripensato comunque come sempre, anche proprio con le ciclabili, con l'idea che le biciclette debbano avere un'altra considerazione, un'altra gestione, e che le biciclette poi si debbano segnalare quando diventano non più singole ma comunque una comitiva, anche minima, anche quella della domenica che noi vediamo continuamente sulle strade. Certamente serve maggior sicurezza, dopodiché nello specifico della situazione temo che l'incidente l'avrà su tutto. Sì. Agnese Pini, a chiudere, una lettura dai territori che sono i vostri, poi è il territorio della nazione, il territorio che coprite più intensamente. Ma al di là della tragedia, che è indigeribile perché per la figura che rappresenta Zanardi per tutti noi attraverso qualunque generazione, e io mi ricollego a una cosa di cui parlavate in apertura, e questo per stare sui territori, cioè c'è anche una questione strade, poi l'unico indagato è il camionista, e verrà fuori che è colpa del camionista, è colpa della fatalità, del destino, ma insomma le nostre strade non sono proprio una bellezza, e la maggior parte degli incidenti che accadono anche per colpa della strada, di come sono mantenute, di come sono state pensate, del fatto che probabilmente sono un po' obsolete rispetto agli anni che siamo viventi, alle esigenze di oggi. Quindi questo si tiene sempre poco conto, perché si parla oggi di responsabilità umana e di fatalità. Ma ci vuole anche, dici una riflessione su questo. Dobbiamo veramente chiudere. Grazie Agnese Pini, direttrice della Nazione, Giulia Zonca, inviata della Stampa Siena. GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa. Un sacco di cose oggi, dal tema ovviamente della divisione su IVA, taglio delle tasse, ma anche una storia di prove sparite e manipolate nel Tribunale di Como. Tra poco.